Ciao, qualcuno recentemente mi ha chiesto perché faccio video. Ho notato che c'era un vuoto riguardo il tema della felicità. Mi sono reso conto che c'era bisogno di fare una sintesi e di parlare in modo chiaro, una volta per tutte, affinché fosse fatta luce sul mistero della felicità. Sintesi di un mondo che viene indagato in campo medico e della salute, dell'antropologia, della psicologia ed anche della filosofia, della sociologia e persino dell'universo delle scienze esoteriche e naturali. C'era bisogno di raccogliere i punti comuni da tutte queste discipline, secondo il principio per cui ciò che è condiviso da gran parte del sapere universale è altamente tendente alla verità. Era necessario colmare un vuoto e portare un'adeguata comunicazione nel regno dell'ambiguità, poiché nella confusione sapete poi cosa accade. Ho percorso questo obiettivo facendo leva su un mio personale talento, la gioia, poiché fin da quando ero piccolo mi è sempre stato riconosciuto di essere solare, sorridente, accogliente e che standomi vicino le persone respirassero aria buona. Perciò ho scoperto che diventare portavoce della felicità nel mondo mi entusiasmava. Inoltre sarebbe stato un obiettivo molto nobile e questo mi avrebbe maggiormente gratificato. Ho letto oltre 140 libri sull'argomento negli ultimi 10 anni, estraendone i punti di forza a favore di universalità, cioè condivisi da moltissime discipline, e con creatività ho prodotto materiali audio, video e protocolli pratici, convinto che la felicità sia qualcosa su cui è vietato tacere. Il mio obiettivo è di essere davvero in grado di fare del bene al prossimo. La mission che rappresento è la seguente: questa vita, per quanto breve e altresì magica possa essere, non può essere vissuta a fondo, non può avere un senso appagante se non faremo qualcosa di grande, di buono o di bello per gli altri con continuità. Per questo ho scelto di dedicare parte della mia giornata, nello specifico le albe e i post-tramonti, a questo tipo di condivisione, credendo nel suo potere di innescare sorrisi e qualità di vita nelle altre persone. Faccio mia una frase che usavano i Blues Brothers dicendo: "Mi chiamo Pierre e sono in missione per conto della felicità". Ciao!